Vi ricordo che ipotenusa alla seconda è uguale alla somma di cateto 1 alla seconda e cateto 2 alla seconda.